Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana, nuovo appuntamento insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, quindi il saluto vi arriva da Francesco Galante e anche dall'altra parte del capo del telefono, dal presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Carlo, oggi torniamo a parlare dell'argomento che ha scandalizzato il mondo intero per quanto riguarda la Volkswagen e insomma i ritocchini, diciamo così, ai vari motori diesel. Sì, parliamo del caso della Volkswagen, ricordando che comunque questa cosa riguarda anche in minor parte l'Audi, come riguarda anche la Seat e la Skoda, cioè tutti quei motori Volkswagen, del gruppo Volkswagen. Ma parliamo di questa vicenda perché anche l'Adico ha deciso di scendere in campo, in quanto molte persone proprietarie di questi veicoli che rientrano nei carismi di vettura incriminata si sono rivolti ai nostri uffici legali e hanno deciso con loro di intraprendere un'azione risarcitoria nei confronti della Volkswagen e di questa vicenda che insomma ha dell'incredibile. Nello specifico cosa farete? Cosa avete intenzione di intraprendere? Allora, innanzitutto Francesco ti dirò che rispetto a molte altre associazioni di consumatori noi non promettiamo farci dei risparmi da 10-50 mila euro come molti hanno detto o annunciato, ma riteniamo che prima di intraprendere un'azione concreta ci attendiamo quella che è una risposta della casa e capire come la casa voglia risolvere questa vicenda. Noi come Adico riteniamo importante esserci, riteniamo fondamentale tutelare i cittadini che si sono rivolti a noi, però in questo momento il nostro ufficio sta diffidando la casa da provvedere a ripristinare il bene alle caratteristiche e alle specifiche in cui questo bene deve prefiggersi, ma riteniamo che l'azione esercitoria vada ponderata in maniera equilibrata in virtù di quello che deve essere l'azione che i nostri esperti valuteranno e che la Volkswagen in questi giorni intenderà adottare. Ecco perché la Volkswagen sarebbe disposta a, come dire, modificare le vetture? È chiaro che in questo momento i presupposti per richiedere un risarcimento ci sono, perché se le auto hanno inquinato rispetto a quelli che hanno dei limiti di legge che doveva rispettare, le persone possono sentirsi vittime di, chiamiamola una congiura, ma è anche vero che qualora la casa voglia intervenire sui veicoli riducendoli di potenza, chiaramente i veicoli, non rispettando più le specifiche della casa, in questo caso mettono in condizione il consumatore di essere risarciti perché il bene non è più conforme alla prescrizione e alle specifiche che il mezzo deve avere. Però i scenari e i modi di intervento in questo momento sono ancora nella fase di ipotesi, per cui, come abbiamo detto, abbiamo fatto per decine di consumatori. In questo momento preferiamo acquisire le documentazioni e creare questo gruppo di persone che insomma rientrano in questa caratteristica, e dopodiché, una volta che abbiamo acquisito tutta la situazione sotto controllo, tenendo conto anche della risposta che la Volkswagen vuole dare, valuteremo le azioni più adatte. Certamente nell'immediato diffidiamo subito la casa ad intervenire, a fare chiarezza in quanto è accaduto e soprattutto a ripristinare il bene, come detto, alle specifiche tecniche che il mezzo deve avere ed è prescritto che insomma si è tenuto ad avere come cavalli, come potenza, come missioni. Ho capito, quindi chi insomma ha una delle macchine famose coinvolte nel famoso scandalo Dieselgate, così l'hanno chiamato, può chiedere lumi all'Adico, ricordo associazionedifesaconsumatori.it. diamo anche il numero di telefono? Sì, diamo anche il numero di telefono che è 0415349637 o l'indirizzo mail che è info@associazionedifesaconsumatori.it e invitiamo i consumatori a prendere contatto con la segreteria, almeno per rimanere informati su quello che è insomma l'andamento della vicenda, fiduciosi che insomma anche questa, come molte altre, si possa risolvere nel modo migliore. Ecco, leggevo che in Italia sono circa 700.000 le macchine coinvolte, quindi insomma è un numero, non è proprio piccolo, eh? Il numero sicuramente è molto grande e certamente, come abbiamo detto, come Adico siamo abituati a non promettere facili guadagni, ma ci impegniamo a far chiarezza sulla vicenda e a fare in modo che il consumatore venga tutelato e che lo stesso gli venga riconosciuta quello che possono essere eventuali disagi o danni che può aver subito. Rimaniamo fiduciosi sul fatto che la gente continua a seguirci come hanno sempre fatto e vediamo nelle prossime ore come questa faccenda si svilupperà e dopo in base alla quale noi decideremo quella che sarà l'azione legale più opportuna e più conveniente, certo, anche per le persone che si rivolgono a noi. E ovviamente poi magari ne riparleremo tra qualche tempo anche attraverso i microfoni di Blu Radio Veneto. Grazie al presidente dell'Adico Carlo Garofolini e buona settimana. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.